Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiremo anche dalle dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio nel corso della trasmissione Porta a Porta, chiaramente non quelle che riguardano la vicenda personale e la separazione del Presidente del Consiglio, ma una critica alle banche che è emersa durante l'intervista appunto a Porta a Porta, in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi, tutte le banche stanno facendo troppi utili, e questo ci permetterà poi di toccare il tema di come sta andando il settore bancario con il Presidente dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola. Poi parleremo anche degli sviluppi nella vicenda Fiat, in questo caso è soprattutto Fiat Opel, anche oggi precisazioni, manifestazioni di interesse, tutto in divenire, come si dice in questi casi. Avremo anche un approfondimento dedicato alla presentazione del libro bianco sul welfare. Già oggi molti giornali riportavano delle anticipazioni sul libro bianco presentato dal ministro Sacconi, che punta a modificare anche con elementi oggettivamente nuovi la struttura del welfare, dello Stato sociale italiano. E ancora, come sempre, vi sarà il commento alla situazione di borsa. Borsa che in questo momento si avvia a chiudere molto bene a Milano, più 2,1%. L'S&P MIB ha recuperato quota 20.000 punti. Il MIBTEL è a 15.800 punti, più 1,8%. Dico molto bene anche perché Milano è la migliore in Europa e continua a confermare un andamento di poche decimali, però sempre migliore rispetto alla media delle borse europee. Parigi più 1,80, Francoforte più 0,8, Londra più 1,4%. L'America è leggermente positiva, più 0,3% sul Dow Jones, e invece negativa sul Nasdaq di uno 0,7%. Euro quota 1,33. I titoli, Saipem molto forte oggi, più 8%, e di nuovo in evidenza la Popolare di Milano, che ha toccato, ha riconquistato per meglio dire 5 euro per azione, più 6,8%. Forte anche Unicredit, più 6,8%, e torna a 2 euro per azione. Il Banco Popolare più 6,6% e 5,87 euro. Mondadori più 6,6%, Tenaris più 5,80%, Impregilo più 4,3%, Snam più 4,1%, Autogrill più 4%, Prismian più 3,5%, Mediaset pure il 3% lo guadagna Intesa San Paolo a 2,50 euro per azione, quindi bene oggi tutto il settore bancario, e il Monte dei Paschi più 2,90 euro a 1,28 euro. Chiudiamo con le CIR più 2,6%, Unipol più 2,3%. Chi cede? Fiat, che molto era cresciuto in questi giorni, perde il 2,2% a 7,90 euro, Luxottica meno 1,2% e Parmalat meno 1%, UbiBanca meno 0,7%. Ultima cifra, come sempre a quest'ora, quella per i vostri sms: 349-238-6666. Il petrolio continua a mantenersi a 55 dollari e mezzo al barile, è salito oggi dopo un dato sulle scorte di petrolio americane che hanno segnato un aumento inferiore alle attese. Sempre per quello che riguarda l'America, oggi c'è stato il dato sul quanti disoccupati nel settore privato si sarebbero creati negli Stati Uniti ad aprile. Secondo le prime stime sarebbero 491.000 i posti di lavoro persi nel mese di aprile, che è una cifra enorme, ma è quasi la metà rispetto ai 710.000 persi nel mese di marzo, il che vorrebbe dire che è un problema ancora molto grave il tasso di disoccupazione in America, ma sta rallentando, diciamo, l'emorragia di posti di lavoro. E comunque le previsioni sono di una disoccupazione americana che ad aprile andrà all'8,9%, il livello più alto dal 1983. E brutte notizie arrivano dai cosiddetti stress test, i test a cui sono state sottoposte 19 banche americane, ipotizzando una situazione particolarmente grave per vedere come potrebbero reggere alla situazione peggiore. Ebbene, notizie non belle arrivano per Bank of America, perché secondo quanto scrive oggi il New York Times, citando alcune fonti interne, Bank of America avrebbe bisogno di ulteriori capitali per quasi 34 miliardi di dollari come conseguenza di quanto emerso dal test operato anche su Bank of America. Citigroup, l'altra banca in difficoltà, avrebbe bisogno anch'essa di capitali, una cifra minore, dai 5 ai 10 miliardi di dollari, sempre secondo quanto scrive oggi il New York Times. Vicenda Fiat, Chrysler, Opel. Allora, la Chrysler ha annunciato che chiuderà 6 impianti di produzione negli Stati Uniti che non fanno parte di quelli che verranno ceduti alla Fiat. Si tratta di stabilimenti situati nel Michigan, nel Missouri, nell'Ohio e nel Wisconsin, e la chiusura prenderà via nella seconda parte di quest'anno per arrivare al blocco totale della produzione nel 2010. Questo è il fronte Chrysler. Il fronte Opel vede alcune precisazioni. Ossia, il portavoce del Ministero dell'Economia tedesco ha detto che la Fiat non ha presentato al governo tedesco il piano citato ieri dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, la FAZ, in cui quel piano si attribuiva alla Fiat la chiusura di 10 impianti, tra cui quelli italiani di Pomigliano e Termini Imerese. Smentito questo piano dal governo tedesco, mentre IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, ha chiesto un intervento diretto dello Stato nel capitale della Opel. Il gruppo automobilistico russo GAZ ha confermato il suo interesse a un eventuale investimento in Opel, mentre, secondo quanto scrive oggi il quotidiano Dagens Industri, il governo svedese avrebbe avuto colloqui con la Fiat in merito al potenziale acquisto della Saab, e questo interesse della Fiat avrebbe ottenuto dal governo svedese una risposta positiva. Ancora in rosso invece il trimestre per la BMW, primo produttore mondiale di auto di lusso, ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con una perdita di 152 milioni di euro dopo quella pesante da 960 milioni di euro registrata nell'ultimo trimestre 2008. Pensate che un anno fa invece BMW aveva chiuso i primi tre mesi con un utile di 487 milioni di euro. Veniamo all'Italia. La class action potrebbe essere introdotta senza valore retroattivo. C'è un emendamento in questo senso del senatore Alberto Balboni del PDL. Ancora per quello che riguarda il libro bianco del welfare, vedo già alcune domande al 349-238-6666. Un libro bianco in cui ci si occupa dello stato sociale a 360 gradi, dalla salute, la previdenza, la formazione, un insieme di proposte, il legare il salario anche al territorio. Il ministro Sacconi ha detto però non si tratta di gabbie salariali, il rivedere anche le forme dell'interruzione del rapporto di lavoro, per cui anche la legislazione a riguardo, e la sanità intesa non solo come cura ma anche come prevenzione, tutela, utilizzo di ospedali più piccoli. Ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda il tema del legare il salario al territorio in cui il lavoro viene sviluppato, come dicevo, il ministro Sacconi ha detto non è corretto e non è esatto parlare di gabbie salariali. Le gabbie salariali sono un concetto non esatto, cioè non, o meglio, il territorio è molto diverso anche nel costo della vita, lo è oggettivamente. E quindi sia le provvidenze ai bisogni, sia il modo di distribuire la ricchezza attraverso i salari riconoscendo i meriti, devono tener conto, il modo con cui tener conto non è detto che non è un modo amministrativo, cioè è il sapere che lo stesso reddito, vivendo in provincia di Avellino o vivendo a Milano, ha un valore diverso, ma questo è sotto gli occhi di tutti ed è una realtà della quale tener conto. così, ministro Sacconi. Ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma, delle ipotesi di lavoro, delle proposte contenute nel libro bianco. Adesso il primo tema, visto anche la giornata di borsa per quello che riguarda i titoli bancari, ma prendendo spunto da una dichiarazione resa appunto ieri sera dal Presidente del Consiglio, ci occupiamo o torniamo ad occuparci di banche, in questo caso banche italiane. Oggi che cosa succede? Che chi ha dei soldi in banca prende pochi soldi di interessi, chi invece ha bisogno di prendere soldi dalle banche paga interessi molto alti. Io credo che in questo momento gli istituti bancari stiano facendo degli utili molto elevati, arrivo a dire anche eccessivi. Quindi io credo che sia un dovere della Banca d'Italia, stimolata dal governo, di intervenire affinché le banche continuino a fare il loro mestiere, continuino a fare le banche, che è quello di sostenere l'economia, di sostenere i consumi e di sostenere chi rischia, chi investe, chi lavora, chi produce. Così appunto il Presidente del Consiglio Berlusconi ieri nel corso della trasmissione Porta a Porta, in cui chiaramente l'oggetto principale era un altro, ma vorrei avere un commento su queste parole, anche perché appunto molto nette, molto chiare da parte del Presidente del Consiglio, e lo vorrei avere dal Presidente dell'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, Corrado Faissola. Buonasera. E buonasera, dottore. Allora, insomma, il Presidente del Consiglio dice che state facendo utili elevati ed eccessivi. Io credo che, se facciamo riferimento all'ultimo periodo di 2008 in particolare, gli utili delle banche, pur essendo stati ancora di buon livello, siano calati in modo molto molto accentuato rispetto all'anno precedente, rispetto all'anno. Tant'è vero che soltanto poche grandi banche hanno distribuito cash i loro dividendi. Quindi, anzitutto, quindi sottolineo come direi gli utili delle banche 2008, ecco, non sono stati particolarmente elevati. In secondo luogo sottolineo che nel 2009 le previsioni che si fanno sono di avere un'ulteriore diminuzione degli utili, questo a seguito dell'andamento dell'economia che incide sia sui ricavi sia sui costi. Questa, insomma, vi ha lasciato quindi perplessi, sorpresi la dichiarazione del Presidente del Consiglio? Ma in una qualche misura io sono rimasto sorpreso, perché le banche italiane, come è stato riconosciuto dallo stesso Presidente e da altri autorevoli membri del governo, si sono presentate alla crisi in una situazione di sostanziale stabilità, tale da non richiedere alcun intervento di sostegno, come invece è capitato in tutti gli altri paesi del mondo. Questo per le politiche che sono state fatte nel passato e finalizzate ad avere buoni livelli di patrimonializzazione e di conseguenza aver avuto anche dei buoni livelli di redditività che hanno consentito accantonamenti adeguati per affrontare la crisi. Di fronte a una situazione di questo tipo io sottolineo come sia probabilmente inopportuno pensare che le banche entrate nella crisi più forti di quelle degli altri sistemi, ecco, ne escano più deboli, e se non facessero utili per un periodo di tempo direi non breve, questa sarebbe la situazione finale. Ecco, mi scusi Presidente, lei dice, ed è vero oggettivamente, che le banche italiane complessivamente hanno avuto molti meno problemi, lo riconosce anche il Ministro Tremonti, Tremonti ha detto anche perché spesso non si parlava l'inglese come espressione, però molti meno problemi perché meno globalizzate e quindi meno contaminate dai prodotti tossici, quasi tutte, ci sono eccezioni importanti, però voglio dire, voi... il governo ha messo a disposizione i Tremonti Bond, quante banche, cioè, perché alcune banche li hanno prenotati, sappiamo di Unicredit, sappiamo del Banco Popolare, ma i Tremonti Bond per la precisione sono già stati erogati? Allora, per quanto mi risulta il Ministero dell'Economia non ha ancora provveduto a sottoscrivere titoli di capitale emessi dalle banche sulla base delle regole che sono state approvate dal Parlamento e rese esecutive attraverso l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e della convenzione che è stata stipulata dall'ABI. L'ABI non è delegata evidentemente a verificare l'evoluzione di questa materia in termini concreti, perché questo riguarda ogni singola banca, ma per quanto mi risulti nessuna banca ha ancora incassato alcunché da parte del Tesoro. Allora, ho capito la risposta dell'ABI, quindi delle banche italiane, alla prima parte della frase del Presidente del Consiglio Berlusconi, quindi utili elevati ed eccessivi no, e comunque voi dite abbiamo la coscienza a posto e è importante che le banche comunque facciano utili o cerchino di fare il maggior numero di utili anche nel 2009 per non uscire indebolite da questa crisi. Ho capito anche che rispetto alle altre banche europee le banche italiane si confermano più solide, meno inquinate, meno intossicate dai prodotti derivati e quant'altro, tant'è che ancora i Tremonti Bond non sono arrivati a chi li ha prenotati. C'è la seconda parte però della frase del Presidente del Consiglio che, su cui potremmo fare un ragionamento, cioè quando Berlusconi dice le banche facciano le banche e sostengono l'economia, qui si tocca un altro aspetto, Presidente Faissola, e cioè il fatto che da più parti è stata segnalata una chiusura del credito, un restringimento dei rubinetti alle imprese e anche ai cittadini, devo dire più alle imprese e purtroppo più alle imprese piccole, medie, artigiane, necessità di rientrare dai crediti concessi e tutto un insieme di atteggiamenti, tassi più alti che insomma hanno lasciato il sospetto, per così dire, che le banche stessero guadagnando sullo spread, sulla differenza tra Euribor e tasso praticato poi alla clientela per recuperare le perdite fatte da altre parti. Beh, anzitutto i tassi applicati alla clientela sono correlati come sempre ai livelli di rischio che le singole imprese presentano. Nei confronti delle imprese che hanno una buona capacità di credito c'è una fortissima concorrenza e i tassi sono direi ai minimi storici, sono i minimi. E nei confronti di imprese che hanno maggiori difficoltà le banche continuano a sostenerne le esigenze finanziarie, ovviamente a prezzi che tengano conto del maggior rischio che queste imprese presentano rispetto ad altre che godono di migliori situazioni patrimoniali e reddituali. In ogni caso le banche italiane non hanno fatto mancare il credito a coloro che lo meritano, ecco, e i diversi tavoli che sono stati aperti a livello di confronto con le associazioni imprenditoriali, Confindustria in particolare, e adesso anche a livello di comitati regionali, i cosiddetti interventi dei prefetti, e direi stanno evidenziando una situazione anzitutto di grande compostezza da parte di tutti i partecipanti a questi incontri, ma anche la non evidenziazione di situazioni, se non in casi sporadici che sicuramente ci sono stati, ci saranno, di una situazione di non drammaticità della situazione. Inoltre abbiamo attivamente lavorato proprio col governo, in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca Europea degli Investimenti per far affluire in termini molto rapidi nel prossimo futuro disponibilità di fondi soprattutto per investimenti a medio e lungo termine molto abbondanti a condizioni di particolare favore. In quel momento direi ci sarà, come suol dirsi, la cartina di tornasole che direi andrà a individuare, e io mi auguro che sia positivo che le imprese utilizzano le risorse che il sistema finanziario mette a loro disposizione per riprendere la corsa allo sviluppo, la strada dello sviluppo, e quindi contribuire come a una rapida ripresa dell'economia. Sì, Presidente, questo ragionamento vale anche per le piccolissime imprese, le imprese artigiane. No, le lo dico perché al 349-238-6666 ci arrivano dei messaggi anche in questi istanti un po' diversi. Però insomma mi dica se non, così come impressione, perché poi ho ancora una domanda per lei, non ritiene che forse i piccoli siano stati più svantaggiati dal credit crunch, dalla stretta sul credito? Ecco, allora, vede, le imprese imprese italiane sono caratterizzate normalmente da dimensioni modeste, non soltanto per quantità di fatturato, ma soprattutto per livelli di patrimonializzazione e di capitalizzazione, è vero. Per cui è indubbio che a fronte di una crisi come quella che ha colpito in taluni settori molto pesantemente il sistema Italia, possano esserci situazioni di difficoltà oggettive da parte delle imprese, che naturalmente sono prese in esame da parte delle banche, perché le banche hanno il dovere di tutelare i propri attivi da un eccesso di perdite su crediti. Le posso dire che nel primo trimestre le informazioni ancora non adeguatamente non complete, dicono che continua la crescita della classificazione a crediti non performing di quantità rilevantissime di finanziamenti fatti negli anni scorsi alle imprese. Quindi è una situazione da monitorare, da tenere sotto controllo. Io condivido l'esigenza che le banche continuino a fare come io credo però stiano facendo il loro mestiere. No, ma il loro mestiere è anche quello di selezionare il credito. Sì, no, io guardi, d'accordo su molte cose, non è che prenda le parti di uno dell'altro, dico solo che secondo me alcune banche, poi è sbagliato generalizzare, ci sono molte banche popolari di credito cooperativo, anche che alcune banche sono state più attente quando dovevano erogare i crediti al piccolo imprenditore, all'artigiano, che non quando dovevano investire somme milionarie o miliardari in prodotti derivati. Però questo ormai è un'altra storia. L'ultima domanda che ho per lei riguarda il presente, cioè il mercato della liquidità, dei capitali, perché abbiamo visto nel frattempo, mentre appunto le banche non hanno ancora ottenuto i Tremonti Bond, quelle che le avevano prenotati, abbiamo visto banche fare diverse operazioni, ma insomma chiedere soldi sul mercato spesso attraverso un'emissione di obbligazioni con rendimenti anche, devo dire, interessanti. Questo vuol dire, secondo lei, che sul mercato dei capitali, cioè sul mercato della liquidità, la situazione è un po' più tranquilla, un po' più serena rispetto a 3-4 mesi fa? Sicuramente rispetto allo scorso autunno la situazione di liquidità del sistema a livello europeo, a livello mondiale, è migliorata. Oggi è possibile ricorrere anche ad emissioni di obbligazioni a dire senior a medio e lungo termine, più a medio che a lungo, ecco, quindi 3-5 anni, a condizioni però ancora molto onerose. Quelle che sono andate sul mercato presentano dei margini rispetto all'interbancario e rispetto ai corrispondenti titoli di Stato di 200 basis points. Cioè il 2% mercato in dei più. Capitali puro al momento è direi in fase di riattivazione con delle piccole dosi di strumenti di capitalizzazione, sì, diversi ovviamente dai Tremonti Bond, che alcuni gruppi bancari stanno collocando sul mercato, collocheranno sul mercato nei prossimi mesi. Grazie, beh, chiaro anche il suo ragionamento, lei dice sì, la situazione si sta tranquillizzando, però chi ha dovuto chiedere soldi sul mercato attraverso l'emissione di un'obbligazione, questo è infatti un prestito obbligazionario, ha dovuto offrire rendimenti di almeno 2 punti percentuali superiori a quello che è il costo del tasso interbancario, e questo significa che tuttora il mercato per fidarsi, per prestarti dei soldi, vuole dei rendimenti alti, quindi non si è ancora creata una situazione completamente tranquilla né di ritorno a una, diciamo, normalità. Grazie al presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faisola. Buonasera. E adesso, per quello che riguarda il mercato, ci chiedete già dei titoli di borsa, vi do la chiusura, più 2% S&P MIB, più 1,7% il MIBTEL, ancora molti messaggi, dunque, poi rispondiamo anche dopo il meteo e la pubblicità, però insomma abbiamo detto al presidente Faisola che molti di voi lamentano, per usare quasi un eufemismo, degli spread, quindi dei tassi applicati, che tassi, la differenza tra il tasso Euribor è quello che viene applicato alla banca, in aumento, e sono anche d'accordo, me l'abbiamo appena ricordato, che alcuni grandi gruppi bancari sono stati più severi, rigidi, duri quando c'era da tirare fuori qualche centinaio di migliaia di euro per piccole imprese artigiane o quant'altro, e hanno avuto invece una grande manica larga quando c'era da investire in prodotti ad altissimo rischio che poi si sono rivelati tossici e diciamo di carta straccia. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 sul tema di apertura. Abbiamo fatto sentire le parole del Presidente del Consiglio Berlusconi ieri: banche che applicano tassi troppo alti pur avendo tassi bassi sul mercato e fanno quindi troppi utili e devono essere di maggior aiuto all'economia, e la risposta articolata del Presidente della Bifaisola. Devo dire che chiaramente molti di voi sono critici, sostengono che le banche abbiano aumentato gli spread, abbiano aumentato i costi, siano più dure nell'erogare credito. Va anche detto che invece c'è anche qualche ascoltatore che scrive, che dice: no, attenzione, io per esempio ho rinegoziato il mio mutuo, mi si è abbassato lo spread, per cui insomma tutto sommato non ho esperienze negative. Certo, poi ci sono persone che hanno casi oggettivamente incredibili, non si concedono nemmeno 50.000 euro di fido a chi fattura quasi 200.000 euro. Vabbè. Comunque, adesso la borsa e poi gli sviluppi nella vicenda Fiat, questa volta chiaramente Opel, e soprattutto quanto sta pesando la variabile elettorale in Germania in questa trattativa. Prima di tutto la borsa. Più che buona la chiusura oggi a Milano, ricordavamo più 2,3% l'S&P MIB, più 1,80 il MIBTEL, la migliore Milano assieme a Parigi, più 1,81, più debole Francoforte, più 0,5, Londra più 1,20, l'America continua a guadagnare uno 0,3%. Molto bene oggi le banche, la Popolare di Milano più 7,90, il Banco Popolare più 6,20, Unicredito più 5,6 e ancora Intesa più 3,5, Monte dei Paschi più 2,2. Il miglior titolo tra quelli a maggior capitalizzazione è Saipem, più 8%, molto bene anche Mondadori, più 6,90, Tenaris, più 6, Autogrill, più 4,90, Impregilo, più 4,2, Mediaset, più 4, Snamretegas, più 3,7, Prismian, più 3. Perde Fiat, il 2,3%, scende sotto gli 8 euro per azione, a 7,88 euro, Luxottica, meno 2,20, Ubibanca, meno 1,1%. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Tenari, Saipem, Snamretegas, insomma, cos'è il petrolio che, tornando seppur di poco sopra i $55, resta anzi torna ai massimi da novembre? Sì, è soprattutto questo che oggi ha caratterizzato un po' tutto il comparto di quei titoli che dipendono dal petrolio. Non solo Saipem, che ha guadagnato più 8,07%, ma anche Tenaris più 5,98%, e in misura minore anche Eni, che ha guadagnato lo 0,9%. Il prezzo del petrolio, come dicevi, è salito sopra i $55 al barile, si tratta dei massimi da circa 6 mesi, dal 18 novembre. Questo ha fatto sì che tutti i titoli ne risentissero e ne beneficiassero, anche i dati sugli stock di petrolio, che sono saliti sì, ma meno delle attese. Gli stock di petrolio negli Stati Uniti hanno in qualche modo contribuito a tenere alto il prezzo del greggio, e questo si è andato a ripercuotere su un po' tutti i titoli del settore. Alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666 di quanto è cresciuta la borsa, come sta recuperando l'indice complessivo. Avete ragione, perché oggi vale la pena ricordare che l'S&P MIB è tornato sopra quota 20.000 punti, seppur di poco, e appunto non vedeva i 20.000 punti. Un attimo ancora di pazienza, che vi sto dando il numero esatto. Dunque, 20.000 punti, l'ultima volta l'S&P MIB li ha toccati il 12 gennaio, poi l'ulteriore calo fino a sotto i 14.000 punti, adesso dal 9 marzo questo recupero continuo. Far vedere i grafici in radio è un po' difficile, ma insomma il grafico la dice lunga, c'è proprio una V, e l'ultima parte è il recupero dal 9 marzo ad adesso, appunto a 20.000 punti. Da inizio anno la borsa resta positiva e senza considerare la giornata di oggi il MIB comunque da inizio anno ha guadagnato un 3%, l'S&P MIB 1,2, qui va sommato appunto il rialzo odierno. Torniamo sui titoli. Guido, al di là di Saipem, Snam, tutto ciò che si lega al mondo del petrolio, tutte bene le banche. La Popolare di Milano sopra i 5 euro per azione, il Banco Popolare a 5,80 euro, Unicredito sopra i 2 euro per azione, Intesa 2,5 euro. Prego. Sì, come dicevi, le banche hanno mostrato tutto un forte progresso. Questo soprattutto anche in Italia. Diciamo che le ragioni vanno un po' ricercate con quello che sta avvenendo a Wall Street. Domani c'è l'attesa per la pubblicazione finalmente degli stress test dei maggiori istituti di credito e tuttavia le prime indicazioni danno necessità di ricapitalizzazioni per alcuni dei principali istituti, come ad esempio Bank of America, si parla di 35 miliardi di dollari di ricapitalizzazione necessaria, e anche Citi, che necessiterebbe di 10 miliardi di dollari. Tuttavia gli analisti ritengono che gli istituti di credito nella fase attuale siano ancora in grado di sopportare queste ricapitalizzazioni, per cui sono tornati a dare fiducia al settore. E anche diciamo le banche, gli istituti italiani, in parte anche quelli europei, ne hanno beneficiato oggi. Ancora, mentre vedo alcuni sms al 349-238-6666 che criticano il fatto che l'ascoltatore che non ha avuto 50.000 euro di fido con 200.000 euro di fatturato, beh, non è poco, avete ragione, dovremmo andare a vedere le garanzie, comunque un giorno ne parleremo sui fidi e comunque su quanto attente siano alcune banche, a mio avviso delle volte eccessivamente attente alle garanzie dei piccoli e dei piccolissimi, un po' più distratte su altre garanzie dei grandi e dei grandissimi. Ma andiamo avanti. Tiscali, perché viene confermata la trattativa britannica per cedere le controllate inglesi di Tiscali. Sì, sostanzialmente viene confermata oggi. Il nuovo capitolo riguardava un articolo del quotidiano Times che ha scritto che appunto l'operatore britannico del TLC Carphone Warehouse punta a chiudere per l'acquisizione degli asset britannici di Tiscali già questa settimana, anche se poi si potrebbe anche slittare di qualche giorno con un lavoro nel weekend. Tiscali da parte sua si è limitata, come già altre volte in passato, a confermare che sono in corso trattative per la dismissione della controllata nel Regno Unito. Tuttavia, insomma, la borsa oggi sembra credere a un'accelerazione delle trattative, infatti Tiscali ha chiuso in progresso del 16%. Allora adesso vediamo anche un altro dato, grazie ai miei collaboratori che l'hanno appena elaborato. Quanto ci chiedevate, quanto ha recuperato la borsa dai minimi toccati appunto il 9 marzo, che è stato il momento di calo peggiore degli indici? Allora l'S&P MIB dal 9 marzo, quando era precipitato anche sotto i 14.000 punti, ha recuperato il 50%, più del 50%, quasi il 59%, il MIB il 50% secco. Non è poca cosa, eh? Chiaro che eravamo ai minimi, però insomma, chi avesse investito il 9 o il 10 marzo anche solo sull'indice avrebbe guadagnato il 50% in un mese e mezzo o poco più. Grazie a Guido Maurino per quello che riguarda l'aggiornamento dalla borsa, i commenti per quello che riguarda la Mondadori. Guido, se abbiamo una battuta sulla Mondadori che è andata molto bene anche oggi, quasi il 7% a 3,28 euro. Il fatto che Mediobanca abbia inserito il titolo nella sua buy list, alzando il target price, attese meno negative sul fronte della pubblicità. E poi migliori e peggiori, tra i peggiori Fiera Milano perde il 4, poco altro, titoli molto molto sottili, Boero, Bartolomeo meno 5. I migliori invece Cell Therapeutics più 21, Montefibra più 29, Tiscali come si diceva più 16%, Lesnia più 14% e poi come si è detto Saipem più 8%. Grazie ancora al collega di Radio Corp. La vicenda Fiat, ripetiamo, Chrysler ha annunciato che chiuderà 6 impianti di produzione negli Stati Uniti, ma sono impianti che non fanno parte di quelli che verranno ceduti alla Fiat. Quello, e tra l'altro sempre la Chrysler, offrirà agli americani incentivi fino a $4,000 per l'acquisto di auto prodotte nel 2009. Ma chiaramente la vicenda Fiat si chiama e si declina soprattutto con Opel in questi giorni. Qualche sviluppo sì c'è stato, nel senso che il governo tedesco ha smentito la Frankfurter Allgemeine Zeitung dicendo che non è vero quanto riportava, ossia che il piano Fiat Opel prevederebbe la chiusura di 10 impianti, fra i quali quelli italiani di Pomigliano e di Termini Imerese. Per cui ha smentito che quello sia il piano proposto da Marchionne al governo tedesco. IG Metall, sindacato dei metalmeccanici tedesco, chiede l'ingresso dello Stato nel capitale. E nel frattempo, oggi, in prima pagina, su Sole 24 Ore, un pezzo a firma di Carlo Bastasin titola Il fantasma dell'Opel sul voto dei tedeschi. Carlo Bastasin, buonasera. Buonasera. Ti farei ascoltare in primo luogo, visto che anche nel tuo pezzo viene riportata una dichiarazione di Luigi Angeletti, che è segretario generale della UIL, oggi intervenuto nel nostro GR Extra Large dell'Una, su quella che sia la preoccupazione dei sindacati italiani. La nostra vera preoccupazione è che, almeno la mia, che in una ipotetica trattativa tra governo tedesco e Fiat, il governo tedesco sta sotto campagna elettorale, quindi ha ovviamente pressioni e interessi, diciamo così, contingenti, imponga alla Fiat magari di guardare con un occhio molto più benevolo del normale gli stabilimenti in Germania piuttosto che quelli in Italia, e questo francamente a noi non ci può star bene. Questa preoccupazione, diciamo, dei sindacati è in realtà che è tutta ipotetica, visto che non mai si è parlato di una chiusura di impianti italiani, emerge anche un po', Carlo Bastasin, dal tuo pezzo, in cui tu ricordi come comunque in questa partita, insomma, più che il futuro industriale o accanto al futuro industriale della Opel, c'è il futuro a breve, brevissimo termine politico di Angela Merkel e del suo governo. L'industria dell'auto ha per la Germania un forte potere simbolico, in molti casi si è identificata, diciamo, l'eccellenza industriale tedesca con il successo dell'industria dell'auto. Il fatto che attualmente sia in crisi coinvolge direttamente la politica. Pensate al ruolo che ha per esempio il Land della Bassa Sassonia nella proprietà della Volkswagen, e lo stesso un ruolo altrettanto influente comunque la politica locale in quasi tutte le determinazioni, le scelte di politica industriale dei grandi gruppi automobilistici. Non c'è premier di un Land, sia la Baviera sia la Bassa Sassonia, sia naturalmente il Land di Stuttgart, del Baden-Württemberg, che non interloquisce direttamente con i manager dei grandi gruppi automobilistici. In questo caso c'è una duplice coincidenza, e cioè alcune elezioni locali molto difficili, molto problematiche per i governatori dei Länder, e naturalmente le elezioni federali di settembre, che sono soggette a un'incognita che i tedeschi chiamano emotiva, cioè già in passato, nelle ultime elezioni, Angela Merkel aveva, a distanza di alcuni mesi dal voto, un consistente vantaggio elettorale che le avrebbe potuto permettere di considerare, diciamo, politiche e strategie non di compromesso, ma man mano che si avvicinava al voto lei cedeva su questioni che mobilitavano le emozioni dell'elettorato tedesco, perché più capaci di cogliere questi sentimenti fondamentali erano i rivali del Partito Socialdemocratico. Lei certamente mollava e potrebbe mollare un po' sul rigore della CDU. Altro aspetto che tu tratti nel pezzo, Carlo Bastasin, riguarda il paragone con la vicenda all'Italia. Anche qui, sullo sfondo, capire se il governo tedesco per accettare l'ipotesi Fiat chiederà però nessun sacrificio in Germania, timore dei sindacati italiani. Ma perché tu vedi una similitudine tra Opel, che era controllata da General Motors, che insomma, la casa madre che ha avuto i grossi problemi, non solo o non tanto la Opel, e invece una vicenda come quella all'Italia, in cui ci siamo trascinati una compagnia di fatto fallita per anni? Beh, diciamo che nel caso all'Italia la mozione nazionale, la difesa della nazionalità della compagnia aerea è stato il tema che ha determinato la risposta politica di Berlusconi all'allora governo Prodi, e quindi diciamo l'elemento di interesse nazionale più simbolico che reale, naturalmente, quindi più propagandistico che effettivo, mi sembra sia possibile venga agitato anche nella questione Opel. Opel ha un forte radicamento nella cultura tedesca, un po' come all'Italia era simbolico di una certa bandiera italiana, ecco. Per cui tu temi che poi il governo di Angela Merkel diciamo, veda con preoccupazione un superamento a destra dell'opposizione, cioè se l'opposizione si mettesse a difendere la germanicità di Opel metterebbe la Merkel in difficoltà, la Merkel e i Länder da lei, esatto. Dove molto, la si deve... Questo qui, lei ha colto un tema molto, molto importante, Opel, benché storicamente azienda tedesca, è dal 1924 un'azienda, una filiale di un'azienda americana, non è nemmeno una società per azioni, per intenderci, una società con un regime che in tedesco si chiama GmbH, quindi non diciamo una Aktiengesellschaft, una società per azioni, quindi è una società americana. Quello che difende l'SPD non è la nazionalità in questo caso del capitale, ma è la nazionalità dei posti di lavoro, e questo è uno schema in cui io mi ritrovo molto familiarmente, cioè se è permesso dirlo, cioè perfino scritto un libro su questa cosa, cioè che dal punto di vista dei partiti di sinistra questi ricorsi diciamo al protezionismo tendono a scaricarsi sul tema della difesa dei posti di lavoro, mentre dal punto di vista dei partiti di destra tendono a scaricarsi sulla difesa della nazionalità del capitale. Ecco, in questo caso il capitale non è nazionale, e quindi era prevedibile attendersi che Angela Merkel non difendesse la proprietà tedesca e quindi accettasse l'arrivo di stranieri, di italiani in questo caso, nella proprietà di Opel, mentre SPD correttamente dal suo punto di vista, la funzione dei suoi elettori, difende i posti di lavoro tedesco prima di tutto. Grazie per averci fatto capire anche quanto la variabile politica, al di là di quello che già si intuiva e si immaginava, venga giocata dai due schieramenti, SPD da un lato, quindi socialisti, socialdemocratici, e CDU, cristiani di centro, dall'altra parte. Grazie a Carlo Bastasin del Sole 24 Ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di un nuovo welfare, che è l'obiettivo che si è posto il ministro al welfare, appunto Maurizio Sacconi, il ministro del lavoro, che ha presentato questa mattina a Roma il nuovo libro bianco sulle riforme dello Stato sociale, con, come ricordavamo, più di un elemento di novità, a partire dalla nuova legislazione sull'interruzione dei rapporti di lavoro, ma anche salari legati al territorio in cui vengono erogati, e poi la sanità vista non solo come cura. Vi arriveremo perché sono numerosi punti, tra l'altro vi anticipo che ne parleremo anche domani sui punti diciamo più discussi. Rapidamente, per chi si fosse messo ora in collegamento, ricordiamo che la borsa oggi ha archiviato un'altra buona giornata con un rialzo del 2% sull'S&P MIB, che porta, lo ribadisco, al 59% il rialzo dal minimo del 9 marzo, quando l'indice MIB scese, l'indice S&P MIB scese anche sotto i 14.000 punti, adesso siamo a 20.000 e passa punti, 20.100, più 50% dai minimi del 9 marzo anche per il MIBTEL. Da inizio anno siamo a un quasi 3,5% per il MIBTEL di rialzo e un 1,5-1,6 per l'S&P MIB. Una notizia appena battuta dalle agenzie riguarda Alitalia. C'è un incontro in corso a Palazzo Chigi fra i vertici dell'Italia e quelli di Air France. Nella sede del governo sono infatti presenti il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Sottosegretario Gianni Letta. Per le compagnie, a quanto si è appreso, sono presenti i Presidenti dell'Italia Roberto Colaninno, l'amministratore delegato Rocco Sabelli, e c'è anche il numero uno di Air France KLM, ossia Jean-Cyril Spinetta. Al termine dell'incontro dovrebbe esserci anche una conferenza stampa, vi faremo sapere, o se no vi daranno aggiornamenti i nostri GR. Dicevo, verso un nuovo welfare, l'ultimo libro bianco, che immagino alcuni di voi ricorderanno, era quello del 2001, che però si occupava principalmente del mercato del lavoro e da cui scaturì nel 2002 la legge Biagi. Diverso invece l'obiettivo e anche l'orizzonte del libro bianco presentato oggi. Diverso perché riguarda lo stato sociale a 360 gradi, potremmo dire, dalla salute alla previdenza alla formazione, con un insieme di proposte. Punti principali, ripeto, ne parleremo anche domani: la salute non solo intesa più come semplice cura della malattia, ma promozione del benessere, delle capacità personali. L'ospedale in sostanza dovrebbe lasciare spazio a una filiera di servizi, diagnosi, prevenzione, cure e riabilitazione, puntando anche sui piccoli ospedali piuttosto che su quelli grandi, e comunque con l'obiettivo di ridurre i costi complessivi del sistema. E poi la parte che riguarda il lavoratore. Ridefinizione del regime di, leggo testualmente, di recesso del rapporto di lavoro, quindi come si interrompe un rapporto di lavoro. E via libera anche al ripristino di differenze salariali e di trattamento tra i diversi territori del paese, fermo restando uno standard protettivo minimo e omogeneo sull'intero territorio nazionale. E poi c'è la parte che riguarda le tutele progressive, ossia man mano che il rapporto di lavoro si va a strutturare, prosegue tra dipendente e datore di lavoro, aumentano anche le tutele nei confronti del dipendente. Il ministro Sacconi ha escluso che in un tempo di crisi si possa mettere all'ordine del giorno sia la riforma degli ammortizzatori sociali, né quella delle pensioni, né quella dell'articolo 18. Però invece all'ordine del giorno, come ha specificato il ministro Sacconi, c'è il miglioramento del servizio sanitario, a cominciare dal mezzogiorno. Che cos'è all'ordine del giorno? Subito in questo presente, e lo trovate chiaramente sottolineato qui, è all'ordine del giorno la questione della sanità meridionale. Questo è all'ordine del giorno. Questo si capisce che è all'ordine del giorno qui e ora, che cioè l'accelerazione del risanamento dei servizi socio-sanitari assistenziali nel mezzogiorno, e la questione dei piani di rientro e la questione dei commissariamenti ove non vengano rispettati i piani di rientro, è qui perché è la premessa del buon funzionamento del federalismo fiscale, e l'accelerazione di quei piani di rientro significa dare ai cittadini del mezzogiorno non meno ospedali, più servizi, quelli che spendendo di meno il nord e quella parte del centro che funzionano danno ai loro cittadini, e che invece in molto sud, in molta parte del sud, i cittadini, trovando una spesa pubblica superiore, non hanno, dovendo prendere il treno della speranza, dovendo pagare due o tre volte quello che invece dovrebbero avere attraverso la fiscalità generale. Così il ministro Sacconi, e voglio dire che la sanità al sud sia complessivamente, con molte eccezioni, ma un disastro, lo dicono non solo la scarsa qualità dei servizi, ma anche i costi. Cioè tre regioni del nostro mezzogiorno, anzi compreso il Lazio, sono Lazio, Sicilia e Campania, da sole fanno il 70, quasi 80% di tutto il buco della spesa sanitaria. E soprattutto in Campania e in Sicilia non è che a fronte di una spesa fuori controllo vi siano servizi, diciamo, di carattere svizzero o scandinavo. Comunque ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Michele Tiraboschi, che è docente del diritto di lavoro all'Università di Modena, direttore del Centro Marco Biagi e uno dei collaboratori del ministro Sacconi proprio nella stesura del libro bianco. Buonasera professore. Buonasera. Un minuto ancora di pazienza per le informazioni sul traffico, poi ascolteremo anche l'intervento del ministro Sacconi sulla proposta di legare il salario al territorio, in cui dice Sacconi non sono gabbie salariali, diciamo molto molto fredda l'accoglienza da parte dei sindacati, mi riferisco alla dichiarazione che ha reso ai nostri microfoni Luigi Angeletti. Di nuovo in diretta, si diceva uno dei punti principali contenuti nel libro bianco riguarda una ridefinizione del tipo di salario del trattamento complessivo da legare al territorio in cui viene erogato. Sentiamo il ministro Sacconi specificare che non si tratta comunque della categoria del concetto delle gabbie salariali, e subito dopo però ascoltiamo anche Luigi Angeletti, intervenuto oggi nel corso del nostro GR Extra Large alle 13. Le gabbie salariali sono un concetto non esatto, o meglio, il territorio è molto diverso anche nel corso della vita, lo è oggettivamente. E quindi sia le provvidenze ai bisogni, sia il modo di distribuire la ricchezza attraverso i salari riconoscendo i meriti, devono tener conto. Il modo con cui tener conto non è detto che non è un modo amministrativo, cioè è il sapere che lo stesso reddito vivendo in provincia di Avellino o vivendo a Milano ha un valore diverso, ma questo è sotto gli occhi di tutti ed è una realtà della quale tener conto. Una cosa fuori dalla possibilità addirittura tecnica, non solo politica, di realizzarsi. Quello che va sviluppato è un'altra cosa, quello che noi cerchiamo di fare con il nuovo modello contrattuale, la contrattazione decentrata sia di azienda che di territorio. Questa è la nuova frontiera, un sistema contrattuale che sappia sul serio avvicinare quel ipotetico scambio tra la ricchezza che si produce e i vantaggi salariali che se ne ricavano. Allora, professor Tiraboschi, replica Luigi Angeletti, segretario della UIL. Già nella riforma del modello contrattuale, in cui si dà più spazio al contratto della singola azienda rispetto al contratto nazionale, c'è il principio per cui il salario viene legato in base alla ricchezza prodotta. Che senso ha anche tecnicamente legare il salario al costo della vita nell'area geografica? Dall'altra parte abbiamo visto, penso al Sole 24 Ore di lunedì scorso, quanto ampie siano le differenze nel costo della vita, diciamo, nelle varie aree del paese. Prego. E qui la proposta non è una proposta legislativa o amministrativa. Il libro bianco parla di un favore verso la soluzione adottata dalle parti sociali nell'accordo sui livelli contrattuali dello scorso 22 gennaio, quindi mi sembra una linea molto in sintonia con quanto Angeletti diceva. È la contrattazione collettiva che può svilupparsi virtuosamente anche sui territori, e sviluppandosi sui territori registrerà situazioni in cui il costo della vita è più alto, il costo della vita è più basso, territori più ricchi, territori in cui c'è maggiore produttività, quindi maggiore ricchezza a distribuire, e territori invece è più difficile fare questo. Quindi non c'è nel libro bianco alcun intento pubblicistico di tipo amministrativo di introdurre gabbie salariali. Questa è una parola che è uscita sui giornali, ma non è assolutamente contenuta nel libro bianco. Altro aspetto del libro bianco cui lei ha appunto fattivamente collaborato con il ministro Sacconi, voi introducete l'idea, devo dire già presente nello statuto dei lavoratori ipotizzato a suo tempo da Marco Biagi, delle tutele progressive per costruire geometrie variabili in funzione dell'anzianità di servizio e del reale grado di dipendenza economica del lavoratore. Tradotto? E tradotto vuol dire che chi sta più tempo in un'azienda, chi dedica più energie a un'azienda, chi sta tanti anni in un'azienda ha non solo un ritorno economico ma anche un affidamento, anche il diritto di avere maggiori tutele di una persona che in quell'azienda ci sta da 2 settimane, da 1 mese, da 1 anno. Questo vuol dire che più c'è una collaborazione fra il lavoratore e l'impresa, più gli impegni e le responsabilità reciproche aumentano. Questa è un'idea di tutele progressive che è molto in linea, appunto, come le diceva, con l'ipotesi progettuale di Marco Biagi, che in parte si avvicina come idea alla proposta di Pietro Ichino sulla flexicurity, con una grandissima differenza, che la proposta di Pietro Chino tende un po' a riportare tutte le molteplici forme di lavoro, le molteplici esigenze aziendali ad un unico contratto, quindi cristallizzare la realtà in un unico contratto. Mentre la proposta del Libro Bianco, che appunto sviluppa l'idea di Marco Biagi, è che forse è il tempo di superare troppo formalismo giuridico, troppe regole giuridiche, qualificazioni esasperate dei contratti e ricomprendere anche nelle tutele forme di lavoro autonomo, coordinato e continuativo. Questa ci sembra un po' la via su cui lavorare per il futuro, perché nel futuro sarà sempre meno rilevante la distinzione fra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Mi faccia capire, se ho ben capito, voi dite che il tipo di tutele, cioè quanto più io divento illicenziabile o difficilmente licenziabile, dipende dal periodo e quindi dal tempo a cui sto lavorando con quel datore di lavoro e dal tipo anche di ruolo che svolgo. Voi immaginate quindi, perché non ho capito, un'ipotesi in cui ci possa essere un ingresso più o meno per tutti con di lavoro da Coco Pro, insomma lavoro diciamo che adesso si chiamerebbe interinale, comunque molto molto flessibile sulle garanzie e sul contratto, che poi va via via irrigidendosi, via via strutturandosi verso la forma finale di un tempo che adesso si chiama indeterminato, quindi l'assunzione è con una grossa anche difficoltà e tutela sul licenziamento? Un'ipotesi